complimenti per la trasmissione. Vi ascolto tutti i giorni, anche di notte. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Napoli, Napoli, Napoli, city that of love nestled in the heart of Italy. Napoli, Napoli, Napoli, where the mandolins cherubim so heavenly. Buongiorno a tutti, Giorgio De Luca, il nostro autore, ha scelto questa canzone, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Mecchione in redazione. Ma poi parliamo anche di Pirlo, di Juventus, di bidoni. Cominciate a pensare qual è il vostro pacco preferito, intendiamo naturalmente giocatori di calcio. Io non ho una lunga lista, peraltro. Però voglio partire da questa canzone approfittando della localizzazione dell'inafferrabile Pardo. Ciao Pierluigi. Pier. Eccoci. Luigi. Guarda, ci sei. Telefonia, perché mi avete chiamato sia al fisso che al cellulare. Un momento bellissimo. Come si sente? Bene. Per bene. Me è una grande rivincita. Sì. No. L'uomo che ha il telefono non prende mai, adesso con due telefoni, un orecchio e uno l'altro. Una grande rivincita. Bella. Grande momento, c'è il Dolby Surround, sì. Come viene la voce? Senti, sì, non è perfetto, sta, perfetto. Prova, sta. Ta, perché ta, poi ta. Dicono tutti sta? Non lo so. Quando fanno le prove dei microfoni. Forse perché la sta, la S sibila. E quindi non lo so, lo chiedo a Ferronati, che ne so, io non sono, mi dicono di fare sta, dei versi sta, e li faccio sta. Sta. Sta. Ascolta, se, che aria c'è lì a Napoli? È passato il raffaelismo? Ma ho la sensazione di sì, nel senso che poi alla fine il raffaelismo è stato legato a una figura di un grande allenatore, che rimane grande allenatore, tanto è vero che è andato al Real Madrid, e però poi ha lasciato anche tutta una serie di occasioni perdute, e quindi mi sembrerebbe di dire di sì. Poi è chiaro che si deve cercare una sintesi, secondo me la scelta di Sarri è una scelta in questo un po' mazzarriana, nel senso che sì, l'abbiamo detto molte comunque volte. Ha dettato una linea che è una linea completamente diversa rispetto a quella di Benitez. È chiaro che in valore assoluto la carriera di Benitez e quella di Sarri non sono ad oggi comparabili, che sono proprio due sport diversi, però Sarri potrebbe dare a questa squadra, dell'auspicio di così del Napoli, quell'intensità che Benitez nel secondo anno, secondo me, perché c'è da fare una distinzione tra il primo e il secondo, non è riuscito a dare. Poi sono anche questioni, come dici tu, di dindarolo, cioè di portafoglio, non ci sono dentro i soldi della Champions League, dunque anche legittimo. Poi io ho visto dell'ironia oggi sul web, primo giorno di Sarri al lavoro in ufficio tra mille computer e una polo bianca, e qualcuno l'ha paragonato al medico della mutua, ma sono i soliti cattivi. Beh, sembrava, onestamente, sembrava una parete un po' spoglia, sembrava veramente ambulatorio, necessario, però non è da questi particolari che si giudica un allenatore. Sarri è bravissimo e secondo me l'ha dimostrato, cioè, secondo me quello che ha fatto ad Empoli è oggettivo. Sì, è sì, chiaro sì, che adesso è un altro sport. Adesso è un altro sport, è un'altra vita, e soprattutto, come abbiamo detto molte volte, ne resto profondamente convinto, non avrà tempo, cioè non avrà il tempo per costruire la squadra del Napoli. Dovrà partire subito forte, perché io credo che non possa avere e non avrà il credito che comunque si portava dietro, ad esempio, Benitez. Sai che a Castel... sicuro, sì. Scusa, in 5 secondi le partenze di Sarri non sono state sempre brillanti. Esatto. Da un punto di vista proprio di preparazione, perché lui ha puntato sempre molto sul fondo, quindi da questo punto di vista credo che dovrà fare qualcosa di diverso. Lo può aiutare il ritiro lungo. Napoli fa 18 giorni di ritiro a Di Maro, una roba proprio da anni 80, al confronto con i mini ritiri, con tournée da una parte all'altra del mondo che fanno le altre grandi squadre italiane. Senti, ma sai che a Castelvortuna è arrivato un pacco? È arrivato un pacco con indirizzato a Perotti, sono state postate diverse foto, dentro c'erano le sue scarpe. Dopo le scarpe, la sensazione è che domani arriverà Perotti. Sì. La sapevi questa? Posso arrivare sulle scarpe sarebbe veramente... Perotti è un bel acquisto. Perotti anche è un bel secondo acquisto, me. Giocatore talentuoso. C'è da capire come vorrà mettere in campo la squadra. Sarri, secondo me si va verso il centrocampo a 3, e quindi 4-3-1-2 o 4-3-3, però c'è il giocatore che è che sposta, sì, di qualità, sì, sono d'accordo. Anche Allan può dare tanto. A me sembra che i nomi che sono stati fatti a proposito del Napoli sono tutti nomi, non sono nomi fantasmagorici, ma sono tutti buoni nomi. Sono, possono essere funzionali, veri. Sì, sì, sono, esatto, sono giocatori, quindi, che possono essere funzionali a una, a un'ipotesi di squadra. Prima del traffico, volevo farvi sentire che cosa ha detto ieri alla presentazione del nuovo contratto di Marchisio, ma anche di Allegri, che ha prolungato fino al 2017. Che cosa ha detto Agnelli? Perché dopo il traffico parliamo di Juventus, dell'addio di Pirlo e di temi come questo, insomma. Agnelli: nel calcio di assoluto non esiste niente. Mi ricordo anni fa c'era la ferma volontà di tenere Vieri alla Juventus, e l'aneddoto che poi invece è reale, cioè, l'avvocato mio zio chiamò Moggi, cosa succede? Non si preoccupi avvocato, il ragazzo è incedibile, due giorni dopo fu trasferito all'Atletico Madrid. Quindi i giocatori sono incedibili il primo settembre. Tutti convocati. Tutti convocati. Dopo 10 anni volevo cambiare, volevo stimoli nuovi, e la Juve mi dava questa opportunità, dato anche gli ultimi anni di non vittorie. Parte Pirlo, rete! Rete! Pirlo, altro capolavoro, sono 46, meglio in vantaggio. Giovinco, vediamo se parte uno schema. Pirlo va in porta. In porta Pirlo! Direttamente sul calcio di punizione. Andrea! Pirlo! 1-0 sotto l'incrocio, dove la tira sempre quando è in quella posizione lì. Regolare da parte di Borucci, possibilità per la Juve, ancora con Morata, il tocco nella zona di Vidal, lo scarico verso Pirlo, Pirlo prova, Pirlo! Pirlo! Pirlo! 2-1 Juve, minuto 93, minuto 93, in 10 contro 11, Pirlo con una traiettoria incredibile. Allora, da ieri ufficiale, il maestro va a dirigere l'orchestra di New York, Andrea Pirlo lascia la Juventus, c'è con una coda che alcuni, soprattutto tifosi milanisti, hanno interpretato come un po' polemica. Io saluto e ringrazio Alessandro Alciato, che con Pirlo ha scritto "Penso e quindi gioco". Ciao Ale. Ciao, buongiorno. Ciao. 10 anni di Milan, 4 di Juventus, eppure al momento dell'addio solo parole dolci per la signora, nemmeno un accenno al diavolo, e qualcuno un po' se l'è presa. Beh, ma in realtà non è una cosa voluta, o meglio, se è voluta è voluta solo in minima parte, nel senso che la sua ultima squadra è stata la Juventus, è stato un amore doppio, un amore corrisposto, un amore molto veloce, un amore che sembrava impossibile fino a qualche anno fa, e quindi siccome ha lasciato quest'ultimo amore ha voluto salutare solo la Juventus. Poi, se vogliamo dire che non si erano lasciati bene con il Milan, che insomma gli era stata regalata solo una penna, era una penna di grande valore, però solo una penna dopo tutti gli anni che aveva fatto a Milanello, allora diciamolo, però in realtà non c'era niente di voluto in questo non saluto al Milan. Io credo sia naturale e normale salutare l'ultima squadra che lasci. Sì. Pierluigi. Sì, la penna era simbolica per l'autobiografia con Alciato. Che peraltro ho incontrato di corsa l'altro giorno a Expo, dove stava per presentare Alessandro l'ultimo libro, cioè quello con Ferrero, che naturalmente era in ritardo. Alessandro era perfetto, camicia bianca, io uno straccio bagnato dal caldo. A quanti libri sei arrivato? A quanti libri siamo? Sono a quattro. Ormai sei quasi su Alberoni, Camilleri. Insomma, sei in corsa. È bello avere degli amici come Fardo. No, ti prendono in giro dicendo le cose serie. Ma no, tu sai che io mi sono rotto un po' le scarpe. Però tu, che invece sei uno vero lavoratore, quindi un po' meno cazzaro di me, fai bene, perché tanto sei bravissimo. Io adesso non è che devo dirtelo io, insomma, tutti i libri sono stati di grande successo, ma poi hai questa metodicità di lavorare, cosa che io e Zenta non facciamo, non potremmo mai fare, perché al quinto minuto cambiamo, ci mettiamo a parlare di altro. Esatto. Ma senti, chi ti aspetta da New York? Cioè, beh, da un lato mi verrebbe da pensare a un'esperienza anche giustamente da esploratore, un po' come quella che ha fatto Del Piero, che non si vergognò, insomma, quando accettò l'offerta australiana di far capire che era anche un'esperienza di vita, no? Da viaggiatore che ha voglia, dopo tante emozioni e tanta adrenalina, anche di farci un giro nel mondo reale, no, che quello del calcio non lo sia, ma anche dal punto di vista calcistico possono arrivare soddisfazioni. Assolutamente sì, questo è un cioè lui la interpreta come un'avventura vera, è vero, da una parte come una scelta di vita, perché lasci il campionato italiano che ha un certo livello tecnico e vai in un campionato dal livello tecnico inferiore ma in grande crescita, ad esempio, per dire quanto il calcio tira in questo momento, mondiali femminili in prima pagina, certo, negli ultimi giorni, certo, su tutti i quotidiani degli Stati Uniti, lì noi non impareremo mai da quel punto di vista, ma per dire, insomma, che il football, il soccer, chiamiamolo come vogliamo, meglio il soccer come lo chiamano loro, è in grande crescita, quindi non va nel dimenticatoio. Avesse voluto fare una scelta per finire nel dimenticatoio e guadagnare tanti soldi, avrebbe accettato l'offerta della squadra dove è andato anche a giocare Xavi in Qatar, perché erano 20 milioni di euro netti a stagione per tutte le stagioni che voleva, con una serie di benefit infiniti del tipo: vuoi un aereo privato per tornare a casa? Sì. Vuoi una villa da mille una notte? Sì. Vuoi una spiaggia privata? Sì. Vuoi uno yacht? Sì. Era tutto sì, però il povero Gervinho non glieli dava, no? Povero Gervinho. Cosa ha chiesto Gervinho per farsi dire di no? Perché veramente, per quanto riguarda Pirlo, erano tutti sì. Comunque, chiusa la parentesi, lui va in un campionato che sa che è un campionato tecnicamente inferiore, ma che è di grande crescita, e dove può essere protagonista. Attenzione, perché questa, secondo me, è la parte fondamentale del discorso. Lui l'ha sempre detto: finché io posso sapere di giocare sempre titolare in una squadra, e quindi di meritarmelo in quella squadra, ci resto. Se invece capisco che le cose stanno cambiando prima che mi mettano in panchina, giustamente preferisco andare via io. Ma e andare in una squadra dove il titolare posso giocare. È un pensiero ormai dimenticato, Alci, la nazionale. Ale. Ah, ecco, pronto. Meno male che ci sei, perché no, cioè, Alessandro, ho fatto fuori il telefono fisso. Non so se era dato questa cosa straordinaria. No, ma forse è caduta la linea dal fisso, che è un fenomeno paranormale, che succede dal 78, e adesso sono tornato al cellulare, e però improvvisamente non sento più alzato. No, non lo sento più neanche io. Alessandro, ci sei? È colpa sua questa. No, dobbiamo richiamarlo. Questi telefoni, mannaggia. Che vergogna. Comunque è curiosa la tempistica dell'annuncio di Pirlo. Nel giorno in cui Marchisio, il principino, viene incoronato dalla Juventus fino al 2019, e nel giorno in cui Allegri allunga fino al 2017. Sì, può darsi anche che ci sia un gioco di mossa e contromossa, ma insomma Marchisio raccoglie con caratteristiche diverse l'eredità di Pirlo nella Juve. Marchisio nasce nella Juve, è un giocatore con ovviamente meno talento puro, quindi meno genialità pura, ma con un ottimo mix di qualità aerobiche, qualità appunto di dinamismo e sì, qualità, certo, tecniche. No, poi reduce una stagione straordinaria, Pier. Forse sì, è uno dei migliori. Sì, sì, questa stagione, cioè, in particolare, secondo me, sul podio tra i migliori della Juventus. Sì, ha segnato di meno, ma ha avuto un'intensità e una continuità di rendimento enorme. Marchisio è un giocatore, vabbè, paragoni con Tardelli è stato fatto. Io Tardelli ero bruttino, me lo ricordo fino a un certo punto, però. Siamo, secondo me, nel solco dei grandi centrocampisti italiani, sì, di quantità e qualità. Ma a me viene in mente anche Paul Scholes, per dire, cioè, quei giocatori che sono che hanno appunto un mix di qualità tecniche, però soprattutto anche qualità di energia. Quando tu riesci a unire all'energia un certo numero di colpi, un buon tiro, una buona geometria, insomma, poi alla fine è fatto il centrocampista perfetto. Quindi. Certo, chiaro. C'è chi scrive: io lavoro da 25 anni nella stessa azienda e non mi hanno mai regalato nemmeno una matita. E allora telefoniamo a questa azienda così. Non mi hanno mai regalato nemmeno una matita. È tornato Alessandro Alciato, qui riproponiamo la domanda. Ale Pardo chiedeva se con questo viaggio in America. Sto pensando il cellulare, io non so più che fare, gente. Sono fermo. Sono fermo in un posto. Sta lì. Adesso mi sono alzato in piedi. Va bene. No, volevamo chiedere ad Alessandro se il viaggio in America vuol dire anche un addio alla nazionale, secondo lui. Probabilmente un addio indotto in tempi magari stretti, magari no, però lo sa Andrea Pirlo che facendo una scelta del genere Conte A lo può vedere meno, ma B insomma magari è portato a scegliere giocatori che giocano in campionati europei, in campionati un po' più vicini, in campionati un po' più controllabili. A questo proposito vi racconto anche un discorso che aveva fatto Conte a Pirlo quando è diventato il CT della nazionale. Ve lo ricorderete, Pirlo aveva dato l'addio alla nazionale alla fine del mondiale brasiliano, poi ci aveva ripensato, Conte gli aveva detto: io ti chiamo se tu ti metti a disposizione, ma non ti do l'assicurazione che tu ci sarai all'europeo del 2016, io ti chiamo quando capisco che tu potrai darci una mano. Questa scelta potrebbe allontanarlo dalla nazionale, io credo di sì. È successo con Giovinco, stiamo parlando di giocatori diversi, insomma, per importanza, per peso specifico, però il discorso può essere più o meno quello. Sì, qualcosa che io continuo a far fatica a capire, come uno lascia l'Italia e improvvisamente sparisce dal radar della nazionale. È successo con Giovinco, succederà con Pirlo, è successo anche con altri. Ma io credo che Pirlo sia da questo punto di vista un'eccezione, nel senso che sicuramente le probabilità diminuiscono, ma proprio alla luce del discorso che Alessandro ha confermato, del tipo di rapporto tra Conte e Pirlo, che può sembrare utilitaristico, ma secondo me invece è una grande forma di rispetto reciproco, no? Nel senso che comunque alla fine, anche se sei stato... Sì, chiara amicizia lunga, dice. Di grande onestà intellettuale da parte dell'uno e da parte dell'altro, quindi a me piace, perché mi sembra una scelta basata sul merito. E sappiamo che nel caso di un calciatore il merito lo devi comunque mostrare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, giorno dopo giorno, quindi il passato conta poco, è una terra straniera, come direbbe Carofiglio. Quindi da questo punto di vista, secondo me, Pirlo rimane un'eccezione. È ovvio che qualche possibilità in meno ci sarà, e mi viene anche da dire che me lo auguro, perché spero che la generazione dei calciatori cresca finalmente in maniera che si emancipi dal passato. Non è impossibile che di fronte invece a un'emergenza, di fronte a una anche perché sai perfettamente quello che Pirlo ti darà. Un'ultima cosa, Ale, hai sentito per caso in questi giorni l'uomo che preferisce la coppa, cioè Carlo Ancelotti? Ci siamo scambiati dei messaggi perché è diventato nonno, sì. E quindi insomma questo è impegnato, è l'unico pensiero del momento, un bellissimo pensiero. Peraltro insomma hanno scelto un nome bellissimo, Alessandro. Ah, in onore di Alciato. Magari assolutamente Alciato. possiamo dirlo, dai, però so che si sono sentiti proprio Ancelotti e Pirlo, perché Ancelotti era a New York per fare una conferenza, Pirlo era appena ripartito dopo aver fatto tutto il suo tour. Allora nella mia testa malata ho pensato: allora Ancelotti a New York, Pirlo va a giocare a New York, Lampard, che è uno dei giocatori preferiti di Ancelotti, va anche lui a giocare a New York, quindi sarà Ancelotti l'allenatore? Assolutamente no, insomma era un'elucubrazione assolutamente sbagliata, no, però ci sta. Per un attimo ci ho creduto. Ci sono anche altri motivi per andare a New York. Ce ne sono un sacco. Però quanto sarà difficile? Cioè, adesso, secondo me, non tutti si rendono conto di quello che perde il calcio italiano senza Pirlo, perché adesso insomma tutti dicono sì, Pirlo parte, ma non mi sembra ci sia questa percezione di quanto, cioè di cosa perda. Se ne va uno che ha fatto la storia del calcio italiano. Se ne va uno che quando va a giocare in tutti gli stadi d'Europa, quando andava a giocare in tutti gli stadi d'Europa e veniva sostituito, standing ovation. Stiamo parlando di stadi come il Santiago Bernabeu, dove fischiano Cristiano Ronaldo che è di casa. Raccontava Cesare Prandelli, sempre, mi ha sempre colpito, dice: tutte le volte, quando ero CT della Nazionale, tutte le volte che finiva una partita c'era la fila dei giocatori avversari fuori dal nostro spogliatoio e tutti volevano una maglia, quella di Pirlo. Insomma, all'estero hanno capito benissimo quello che noi perdiamo, non so se tutti noi invece l'abbiamo capito. Ce ne renderemo conto con il tempo, ho paura. Grazie Ale, buon lavoro. Ciao Alessandro Alciato, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. 800 24 00 24, numero verde. Sì, a Pardo, di togliere, visto che in spiaggia al mare stava telefonando, il telefono da quella custodia per non farlo bagnare, perché non si capiva niente. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Allora Pierluigi Pardo, ripartiamo da due ascoltatori, 800 24 00 24. Intanto cominciate a pensare alle vostre meteore preferite, brucconi che sono transitati nel campionato italiano senza lasciare traccia. Luca, provincia di Padova, buongiorno. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Ciao. Allora, io sono un gioventino sfegatato e a me non me la cava dalla testa. Cosa? Allora, quando Allegri l'anno scorso è entrato alla Juve e ha detto con cosa non c'è più problema, Pirlo, tutti risolti i problemi di quando era in Milan. Mm. E invece Pirlo ha portato pazienza per un anno e dopo se n'è andato via. È spiacente dirlo, ma... E ha salutato la sua ultima squadra perché appunto non aveva problemi solo con Allegri ma anche con la società rossonera che l'ha ceduta alla Juve proprio perché Allegri non lo voleva. Ecco, tutto qua. Ma questo è un pensiero abbastanza diffuso, visto l'impiego di Pirlo quest'anno in cui ha peraltro avuto diversi infortuni, non so se sia la tesi corretta. Mio Pardo, anzi soprattutto Pardo, spesso l'ha smentita. No, io penso che, a parte penso che ci siano i risultati sono enormi e sono sotto gli occhi. A lei l'ha fatto benissimo. Se anche fosse stato vero, se anche fosse vera questa cosa, se anche Pirlo fosse stato sacrificato in questa stagione, alla fine nessuno potrebbe dire niente da lei. Ma poi Pirlo non è stato sacrificato, Pirlo è stato protagonista in questa stagione, ha fatto tanto, ha fatto bene, non ci sono stati screzzi o episodi. Io su Allegri Pirlo ribadisco, quella fu una scelta aziendale del Milan che si rifiutò di rinnovare a certe cifre il contratto. E la Juve sarà bravissima e poi Pirlo è stato bravissimo e ha dimostrato che quella scelta era sbagliata. Sì, ricordo sì. Che per quella scelta lì non ci furono proteste di piazza da parte di Milan, quindi da un certo punto di vista secondo me quella scelta che poi si è rivelata sbagliata da parte degli studenti rossoneri, però in quel momento non era così clamorosa, non era uno scandalo. Pirlo sembrava un giocatore in una fase discendente della carriera e Allegri in maniera un po' aziendalista dice semplicemente vabbè. Beh, se non ci sono più niente, organizzerò con altri giocatori, ma secondo me non ha mai avuto niente contro Pirlo e secondo me in questa stagione l'ha dimostrato. Poi io dico con tutto l'affetto, ieri ho fatto un tweet dicendo che adesso Pirlo va a giocare al Guggenheim, perché per me stiamo celebrando uno dei grandissimi e non sono tanti, sono d'accordo con il discorso che facevamo prima, cioè perderemo un grande valore, lui, Maldini, Totti, Del Piero, cioè, questi qui sono icone dell'Italia del mondo, ma neanche certo. Ma che mondo, segno del tempo che passa, Pier, perché hanno raggiunto una certa età. La Juve pare che decida di privarsi di Pirlo o che accetti questa sua decisione come qualcosa di normale, di accettabile. Secondo me è un ulteriore sintomo che è una grande squadra, una squadra che oggi non può assicurare 38 partite del Toala. No certo, poi Pirlo l'ha detto mille volte, io vado dove sono titolare, questo vale per la Juventus ma l'ha detto anche chiaramente per la Nazionale, vengo ma se vengo gioco, non ci sono altre storie. Sentiamo Alessandro da Firenze e poi vi raccontiamo altre cose con un ospite che è già in linea. Alessandro, buongiorno. Grandi ragazzi, grandi. Grandi, sì, anche tu. Io vi voglio bene, Meno male. Però di nuovo, quando... dare informazioni sulla vicenda Salah, da quelle giuste però. Cioè? Perché ieri sembrava quasi la Fiorentina facesse la patetica di voler trattenere un giocatore per forza. Allora non conoscere Firenze e Fiorentini, perché a parte la società non ha mai trattenuto un giocatore contro voglia. E poi ci avrebbero pensato i tifosi, perché tanto a Firenze se non siamo attaccati alla maglia viola si fa un po' poco. Ma questo signorino qui, che faceva il magazziniere quando si è preso dai Celti, è venuto qui e l'ha tirato avanti un mese, si è fatto offrire fino a 3 milioni di euro questo signore, e poi dopo si è ritirato dicendo, l'avvocato dicendo che lui praticamente non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi di rimanere a Firenze. Ma non credo, perché sennò non si sarebbe neanche seduto a trattare Alessandro. Certo, è un professionista, quindi se lui risulta che a Firenze sarebbe anche rimasto volentieri, soprattutto con Montella, magari questo è un'altra parte del discorso che si potrebbe affrontare. Però insomma ha avuto delle offerte da altre parti che erano nettamente superiori rispetto a quelle della Fiorentina. Adesso il Chelsea, Mourinho l'ha riconvocato, il 5 agosto c'è Chelsea-Fiorentina, chissà se sarà in campo con la maglietta blu. Adesso voglio parlarvi di non meteoriti, meteore. There's a star. C'è il collega della stampa Roberto Condio, che ha scritto un gustosissimo libro che non ho ancora letto, ma lo farò. Ho giocato in Serie A, parentesi, una volta sola. E ci sono dei... Ciao Roberto. Ciao, intanto complimenti per David Bowie e grazie per la convocazione. Grazie a te. No, ma poi leggendo appunto la presentazione di questo libro ti viene in mente, ma Vampeta, ma davvero ha giocato Vampeta una volta, ha giocato una volta nell'Inter? Una sola, e purtroppo penso che i tifosi dell'Inter se la ricorderanno bene, perché fu la prima e unica di Lippi del suo secondo campionato a Reggio Calabria 2-1, quando poi dopo lui disse che se fosse il presidente prenderei a calcio, tutti a calcio in culo, sì. Esatto, bravo. Quindi, dopodiché lui fece 8 partite ufficiali, ma solo uno in campionato, e lui è un po' il simbolo di queste meteore. Tu prima, se non sbaglio, hai parlato di bidoni, ecco, vorrei precisare che naturalmente ci sono anche dei bidoni tra i 307 protagonisti del mio libro. Ma ce ne sono anche di buoni? No, ci sono anche di buoni e anche degli, scusami se posso dire, anche degli sfigati bestiali, sì, cioè, sì. Roba che gente che ha fatto la prima partita e si è rotta, e poi dopo per le vicissitudini del calcio non ha più avuto un'occasione, o si è buttata via. Tipo? Tipo, guarda, io in questo momento sono in una fornace parmigiana, insomma qua a Parma fa abbastanza caldo come in tutta Italia, ma qua ancora peggio. A me viene in mente un certo argentino Oyola, che nel 2004 attese mezza stagione il debutto, poi dopo si ruppe la caviglia destra e non ebbe più un'occasione per fare almeno una seconda partita. Tipo, un caso ancora più clamoroso, un certo Andrea Quaglia, che partecipò qualche anno fa alla cavalcata meravigliosa del Modena di De Biasi dalla C alla A, che ci ricordiamo abbastanza tutti, insomma, non è preistoria, e lui per un infortunio saltò abbastanza Serie B, poi quando finalmente a 31 anni ebbe l'occasione di giocare in Serie A si ruppe il tendine d'Achille. Purtroppo, siccome anch'io me lo sono rotto 2 anni fa, so quello che vuol dire. Lui faceva anche il calciatore professionista, quindi a 31 anni non ha più avuto una seconda occasione, insomma, quindi voglio dire, gente che magari non avrebbe sicuramente fatto delle carriere clamorose, però magari poteva andare oltre quell'unica volta, quell'uno nella casellina delle presenze in Serie A. Uno può anche dire, io intanto uno ho fatto, voi no. Certo. Dipende da come la si guarda. Certo. Roberto, chiedo un attimo di pazienza, che ho il traffico, è tornato anche Pardo, e continuiamo il discorso dopo. A informazioni per chi viaggia. Il tocco d'esterno che sorprende tutti, Vampeta per il gol dell'Inter, un bel gol. Certo che la difesa si è lasciata sorprendere. Tutti convocati. Tutti convocati. E ho varie segnalazioni, non di giocatori che ne hanno giocato una sola, come scritto nel libro di Roberto Condio di cui stiamo parlando, ma di bidoni. La mia top 3, scrive Dante da Busto Arsizio, è Pancev, Blissett, Renato. Oppure la sola più grande di tutti è stato sicuramente quell'Oliveira che sostituì il grande Sheva, maglia compresa, scrive Fabio. Però Roberto, c'è anche chi invece ha fatto una sola presenza in Serie A, poi ha fatto una grandissima carriera all'estero, ad esempio Carlo Cudicini. Tra l'altro, ti dico la verità, io naturalmente buttandomi in questo universo qua, tanto veramente credo di aver scoperchiato una miniera di storie insospettabili, perché io stesso, francamente, anche se seguo il campionato di calcio Serie A da quando sono nato, purtroppo sono abbastanza anni, però mi ero completa, cioè non avevo contezza di certe situazioni, e francamente penso anche di aver passato qualche collega che, ma in quest'estate, che non è che si può sempre solo parlare di mercato, magari lattizzano un po' di argomenti attingendo da queste pagine, magari. Io penso anche ad esempio qua a Parma, da dove ti sto chiamando, dove ci stiamo sentendo, ci sono 17 giocatori che hanno giocato negli ultimi 21 anni una sola partita, quindi vai anche a tirare fuori delle storie che magari possono portare alla memoria certi ricordi. Per quanto riguarda i Cudicini, sì, torno a dire, lui fece una sola partita, un Lazio-Cagliari del 96, entrò al posto di Marchegiani, che si fece male dopo niente praticamente, e lui all'87esimo si ruppe il crociato di un ginocchio, ma volle, anche perché la Lazio non aveva più sostituzione da fare, rimase eroicamente in campo, la Lazio tenne la vittoria, ma lui si fece un bel 6 mesi naturalmente fuori, e di lì poi andò al Castel di San Grindì e di lì venne pescato dal Chelsea, certo. E lì cominciò la sua ottima carriera in tennis, no? Sì. Quindi insomma vedi che non sono tutti bidoni. Io penso anche a Colocini arrivò prestissimo nel Milan a 19 anni, se non ricordo male, e poi è diventato, insomma, ha fatto la sua carriera. Al Newcastle è diventato una bandiera, gioca ancora adesso. Sì, ha giocato con la maglia della nazionale argentina. Pierluigi, ci sei? Sì, no, eccolo, sto ascoltando con grande interesse, devo dire che insomma la miniera di storie è enorme, anche perché poi questo tipo di racconto ci sono tanti elementi, no? C'è l'adrenalina, l'ebbrezza di avere un esordio comunque in Serie A, molto spesso c'è la componente sfortuna, come nel caso di Cudicini, comunque di gente che si fa male, perché insomma, statisticamente è abbastanza improbabile che se c'è una partita non ne possa giocare una seconda, quindi spesso c'è questo tipo di elemento. E c'è quindi l'eterno dilemma in certi casi su se valeva vivere quell'emozione, oppure se è più il rammarico di non aver vissuto altre. Ma ci sono anche giocatori tipo Costinha, che aveva un grande pedigree, che arrivò all'Atalanta e triennale da 750.000 euro a stagione, ha giocato 54 minuti al debutto interno con il Parma, poi stop. Osservatore per Mourinho. Ha fatto l'osservatore per Mourinho, però di tagliarsi lo stipendio o ridursi il contatto, neanche a parlarne. Arrivava con la Lamborghini gialla al campo di Attingonia, faceva il suo allenamento, salutava, se ne andava a fare shopping via Monte Napoleone, poi credo che si dice che andasse anche a osservare gli avversari poi dell'Inter, del suo amico Mourinho. No, tra l'altro, legandomi a quello che diceva Pardo prima, c'è anche gente che ha fatto gol. Cioè, in una partita ha fatto gol, sono 6 addirittura, non pochi. Quindi, insomma, io forse il più conosciuto di tutti, anche perché è quello che gioca nella squadra più con più tifosi di queste 6, Nello Russo nell'Inter nel 99, segnò a San Siro. Saggio nel suo libro autobiografico ricorda ancora che quell'anno lì Lippi dice: mi preferì addirittura un ragazzino della primavera, che era lui, Nello Russo, e segnò il 3-0 con il gol del 3-0 al 90esimo con l'Udinese. Poi c'è anche chi, e questo è il caso unico di questi 307, che è riuscito anche a farsi espellere giocando una sola partita, che è Roberto Putelli, che io ho avuto modo di sentire, un personaggio gustosissimo, gioca ancora nei dilettanti, non ha nessuna intenzione di smettere. Tra l'altro, se posso permettere, c'è un altro ricordo bellissimo legato a Putelli, suggestivo, perché lui l'anno prima, cioè nel 93, fu lui, diciamo, a tenere a battesimo Alex Del Piero, cioè nel senso che quando il Padova, che quell'anno lì venne promosso dalla B, Del Piero entrò, se non ricordo male, a Messina al suo posto, quindi esce Putelli, entra Del Piero. Stessa carriera, quindi, uguale precisamente. Ci sono un sacco di storie del genere che francamente spero di aver tirato su, che qualcuno se le gode, perché ce ne sono veramente tante, non credevo neanche io di trovarle. Io leggo anche un messaggio di un tale Macuglia di Tolmezzo con l'Udinese, ha marcato Van Basten, che gli ha rifilato 3 pere, credo, e non ha più visto la Serie A. Scusa, a scanso di equivoci, qui anche per restringere l'indagine, perché sennò sarebbe diventata, non bastava una Treccani, credo. Anche se poi se più andiamo indietro nel tempo meno ci sono questi casi, perché naturalmente con le rose più ridotte e con meno istituzioni era più facile non fare una sola partita, insomma. Comunque di qui si parte dal primo campionato con i 3 punti per vittoria, cioè 94-95, anche per dare un po' un senso logico, anche un po' la portata di tutti noi, insomma, perché sennò si andava veramente troppo in là, certo. C'erano dei nomi che avrebbero detto davvero poco a tifosi contemporanei. Pierluigi, il tuo bidone preferito qual è stato? Ho sentito la crisi di Vampesa, io mi ricordo l'anno, però probabilmente la fantasissima presenza, l'anno dell'apertura delle frontiere, quindi prima 94-95, che arrivarono Luis Silvio, Fortunato, sì, giocatori che insomma erano chiamati, poi il fatto che c'era fatto soltanto per uno straniero dovevano inevitabilmente dare qualcosa di più, no? Perché era un posto particolarmente pesante, in molti casi questo non è successo. Mm. Beh, Van Peta credo sia stato abbastanza clamoroso. Parliamo del fratello di Cacà? Fratello di Cacà, di Gao, certo. Ma anche io leggo sempre sulla scorta degli ascoltatori. C'è Udes, il famoso Udes, che arrivò con Cardassio al Milan nell'estate 2009, due talenti, o cosiddetti talenti uruguaggi, che poi dopo qualcosa hanno fatto. Prima erano giovanissimi, poi dopo qualcosa hanno fatto. Però Udes nel Milan di Ancelotti del 2009 giocò 9 secondi 9 al posto di Beckham, perché Ancelotti lo mise in campo in una partita ormai decisa al 90esimo, mancavano 9 secondi, siccome la partita era 3-0 e l'arbitro Sato pensò bene, come dovrebbero fare tanti credo quando le partite sono decise, di evitare ulteriori sofferenze a tutti, fischio alla fine, Udes non toccò ne manco palla, insomma. Grazie Roberto. Figuratevi, grazie per questa chiacchierata. Ciao, ciao. Ho giocato in Serie A una volta sola. Beh, di Roberto quarto Conte. D'ora World, eh? No? Quarto d'ora di celebrità. No, ma poi Piero, ho anche varie segnalazioni. Mendieta, ce lo ricordiamo, il flop alla Lazio che ha ridotto in mutande praticamente la Lazio. Futre arrivato con un grande palmarès che però non combinò niente o quasi. C'è chi ricorda Zárate, non quello della Lazio, ma il fratello che giocò nell'Ancona. Questo mi manca. Sì, però già certo. Dove era ancora, però non so se ha giocato una presenza sola, sì, francamente. No, ma qui sono anche giocatori che hanno flop completi. Un certo Reinaldo a Verona, al tempo di vedere il cost to cost di UEA ed era già scomparso, ricorda Gaetano. Reinaldo io non me lo ricordo. Proprio lui. Mi ricordo invece di Robert Pritz, svedese, un anno a Bergamo, sì, tra l'altro nazionale svedese. E scrive l'ascoltatore, su consiglio di Stromberg arrivò a Bergamo, centrocampista con fisico da ragioniere e pancetta peggio della mia, scrive sempre l'ascoltatore. Poi Asanovic, Pruinier, Stojan del Napoli, no, ce n'è una fila, divertente. No, ma assolutamente, anche perché poi adesso col mercato aperto tante volte la filosofia delle società è stata quella di cercare di prendere, nel senso tu magari prendi 10 giocatori e spendi X e basta che uno di questi 10 possa fare qualcosa, prendere e già sei direttamente al di sopra, no? Questo tipo di filosofia tante società in questi anni lo hanno. Beh, anche la storia di Gheddafi, figlio, è una storia credo dei risvolti abbastanza particolari, anche perché insomma si molto curioso, si muoveva in elicottero, esatto. Grazie Pierino, ci sentiamo domani. Assolutamente. Ciao, baci a Pierluigi Pardo domani alle 2. Noi continuiamo invece dopo giornale radio e vi aspetto anche 800 24 0024, numero verde. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno i nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò insomma che nessun luogo è lontano. Dal 27 luglio alle 16 qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Che cos'è, Angelo? Dice la parola stessa. È il mondo dalla prospettiva del cane. Ci dobbiamo chiedere se il nostro cane è felice. Come facciamo? Dobbiamo conoscerlo. Quindi parliamo di alimentazione, della dieta barf, di psicologia, di telepatia con gli animali, un sacco di argomenti. Fantastico. Tutti i sabati alle 15 e tutte le domeniche alle 10 del mattino. Vi aspettiamo, Rosita Celentano e Angelo Vaira su Radio 24. Ricominciamo. Convocati. E per me è un grande piacere ospitare il nuovo allenatore della Milano del Basket, che è un grande allenatore europeo, ma soprattutto è un grande ritorno dopo lo scudetto alla Fortitudo, dopo Roma, dopo Treviso, dopo la nazionale croata, dopo una grande carriera, torna Jasmin Jasko Repesa. Buongiorno coach. Buongiorno a te e tutti i tuoi ascoltatori. Coach, quale Milano hai in mente? Ah, guarda, prima di tutto partire bene costruendo la squadra con un modo giusto, dove la gente deve essere professionisti, la gente seria, la gente dedicata al suo lavoro, perché se facciamo una squadra buona e giusta, adesso sarà più facile durante l'anno. Milano è tornato il grande pubblico, è tornato l'anno scorso uno scudetto, ma è tornata anche moltissima pressione. Sarà un problema? No, non c'è problema per me, perché sono abituato a lavorare sotto pressione. La cosa che mi è piaciuta di più dell'anno scorso, gli ultimi due anni, che Forum è stato quasi tutte le partite pieno, strapieno. E questo è, dal punto di vista nostra partenza, una cosa molto molto importante. Hai detto di aver visto molte volte quest'anno Milano, di averla seguita con attenzione. Qual è stato l'errore secondo te? Dove ha sbagliato? Guarda, questo non è mio. Non è mio lavoro da parlare questa cosa, sicuro. La gente che è stata dentro l'anno scorso, gli ultimi anni, sta molto meglio di me, ma sicuro si poteva fare meglio. Ci sono stati errori, ma onestamente non vorrei parlare questa cosa. Capisco perfettamente. Senti, Gentile al centro del progetto, Datome è il sogno, queste sono cose che ho letto. Melli il giocatore che rivorresti, che vorresti confermare, è così? Hai detto tutto. Vorrei confermare Melli, perché merita, secondo me può giocare meglio e posso aiutarlo per diventare giocatore meglio rispetto ad adesso. C'è un gran spazio, Gentile ha migliorato molto e sicuro il giocatore da dove partiamo. Il nostro sogno, come hai detto, è Gigi Datome. Sarebbe veramente bello partire da tre italiani altissimo livello, sì, e essere più competitivi è possibile in Europa. Questo sarebbe perfetto. Ma su Melli come lo vedresti? Io ho letto che hai detto ho in mente un Melli diverso come? Ma secondo me non ha migliorato molto gli ultimi anni e c'è grande possibilità per farlo molto meglio rispetto ad adesso, e mi sento responsabile per questo e mi sento pronto per fare un miglioramento importante e alzare sua carriera o sua qualità o a livello più alto. Non lo so, sicuro non è soddisfatto come è andato l'anno scorso, gli ultimi anni, ma spero che rimane, se no ma facciamo d'accordo, non c'è problema, ma secondo me sarebbe veramente brutto, perché sono abituato tutta la mia vita a lavorare con giovani, portarli a livello più alto che li ho trovati. E questo lo sappiamo bene, tanto che ho un sacco di messaggi SMS dei tifosi di Bologna che hanno le lacrime agli occhi. Jasmin, ti prego, torna alla Fortitudo, scrive Roberto, magari un giorno, insomma. Adesso un'altra cosa. Un'ultima domanda, coach. L'Europa cos'è per voi? Cosa sarà per voi l'Eurolega? Sarà un torneo dove avere grandi ambizioni? Sarà un torneo da guardare giorno per giorno, partita dopo partita? Hai già un'idea di questo? Sì, i calendari sono più stretti ogni anno, è veramente difficile senza un roster importante, una panchina un po' più profonda, seguire tutti e due i programmi, campionato italiano che è abbastanza difficile, Eurolega che diventa ogni anno più difficile. Una bella sfida, direi così, fare meglio è possibile. Mi è piaciuto molto come ha fatto coach Banchi con la squadra quest'anno, l'anno quello scorso, sì, certo, in Europa, certo. Sono stati veramente molto vicini a Final Four, ma la vita è così, qualche volta un fischio cambia tutto, sai. Vorrei vedere una squadra competitiva che fa gran fame, vincere in Europa, migliorare, è così. Vediamo, prima di tutto, come ha detto inizio, dobbiamo fare la squadra bene. Grazie coach, buon lavoro. Grazie, grazie, e bentornato, mille. E bentornato, bentornato, allora, ripartiamo dagli ascoltatori 800240024, delle voci da farvi sentire, anche qualche storiella divertente da raccontarvi. Sentiamo Castan che torna alla Roma, oggi ha parlato. Come ho detto, spero di tornare più velocemente al mio livello e anche questo, dare fastidio ai tifosi, perché voglio dare allegria al mio tifoso e aspetto tornare più forte di prima. Questa era Castan. Poi c'è una notizia che leggo ora sui siti, il quotidiano catalano Sport, attenzione alla fonte, quotidiano catalano, non madridista o madrileno, scrive che il Real Madrid vorrebbe Ibrahimovic, 6 milioni al Paris Saint Germain, triennale da 12 netti a stagione allo svedese. Bah, ci credete? Ibra Real 800240024 numero verde. A proposito di sempre di giornali, c'è Olé, che è uno di un prestigiosissimo quotidiano argentino, invece, che attacca Lionel Messi dopo la sconfitta in finale di Coppa America, scrivendo: non merita più la fascia di capitano. Siete d'accordo anche voi? 800240024. Tutte puttanate. Giorgio, racconto anche quella di Cristiano Ronaldo o no? La racconto? Adesso, che devo fare? Gianni dalla provincia di Udine, va bene. Gianni, buongiorno. Gianni? Dalla provincia di Udine ha ereditato il telefono di Pierluigi Pardo. Quel telefono che Pardo ha perso e che Gianni dalla provincia di Udine ha trovato. Mentre Cristiano Ronaldo, tanto per dire che piove sul bagnato, era in vacanza a Las Vegas, ha trovato un cellulare, non quello di Pardo, ma quello di una splendida biondina, la quale ha chiamato, ha trovato per caso il mio cellulare, chiacchierano un po', e Cristiano Ronaldo che fa? La invita a cena. E lei che fa? Va a cena con Cristiano Ronaldo. Ci sono le foto, potete guardarle in giro per il web. Gianni dalla provincia di Udine. Niente, non ha al cellulare di Pardo, non quella della biondina di sì. Gianni, buongiorno. Pronto? Oh, buongiorno. Finalmente sento la sua voce, dica. Sono col telefono di Pardo. Questo l'avevo capito. Beh, poteva andarle meglio. Se Pardo mi invita a cena, glielo riporto, però. Sì, non c'è problema, lo farà volentieri. Diciamo che a Cristiano Ronaldo, non so se ha sentito la storiella, è andata meglio, eh. Che non ha lui, Cristiano Ronaldo, io sono Gianni da Udine, quindi non ce ne sono. Va bene, quindi Cristiano Ronaldo va a cena a Las Vegas con la biondina e lei andrà a cena con Pardo in provincia di Udine. Dica. Ognuno le sue disgrazie, dai. Senti, no, volevo se mi aiutavate a ricordare il nome di quel giocatore dell'Udinese, sì, che pare sia ancora il recordman dal punto di vista della statistica per minuti giocati, gol segnati. Giocò 7 minuti scarsi, toccò 2 palle contro l'Inter, sì, una pressione, e fece un gol. Pareggiò al 99esimo forse. Ma quando? Penso qualche anno fa, uno dei tanti talenti dell'Udinese, insomma, pescati qua e là, entrò a pochi minuti dalla fine. Sì. E sai perché me lo dimentico? Perché durante la diretta di quella che era la Sky dell'epoca, sì, si interruppe di colpo, sì, per un temporale la diretta, e quando si riavviò poi la partita, scoprimo che Udinese aveva pareggiato negli ultimi secondi con un gol di questo passato conosciuto che giocò forse 5 minuti in tutta la sua carriera. Poi è scomparso. Però, per la statistica pare sia ancora il giocatore con la media più alta tra minuti giocati e gol segnati. Sì, sì, questa è una delle cose. Questo è probabile, io sinceramente non me lo ricordo, posso, lo confesso candidamente, ma andiamo a cercarlo. Andiamo a cercarlo con i nostri potenti mezzi, da qualche parte lo troveremo, risposte indifferita. Poi, vuole dire qualcos'altro? Poi c'è una cosa che io credo sia forse abbastanza comune come sentimento, anche perché l'ho sentito da molti amici che ascoltano. Ma perché parlate sempre delle solite quattro? È vero che gli altri interessano poco, ma porca miseria, è un profluvio continuo sempre delle stesse grosse squadre. Pare che quelle altre, anche marginalmente, insomma, non combinano mai abbastanza per essere considerate come contorni alle grosse. Allora Gianni, io non voglio fare il solito discorso di bacini di utenza, perché Pardo l'ha già fatto un miliardo di volte ed è condivisibile, però lei si rende anche conto che questa radio ha una grande forza, nel senso che i telefoni sono aperti, alla fine le domande, i temi, gli argomenti di discussione li decidete voi. E quindi, perché non parlate di questo? Parlatene, parliamone insieme. Io vi invito tutti i giorni, alzate il telefono, voglio parlare dell'Udinese. L'Udinese di cui abbiamo parlato diverse volte i giorni scorsi, e una mia domanda è come i tifosi udinesi stanno vivendo questo momento, perché abbiamo fatto anche ieri peraltro questa discussione. Ora Pozzo si trova per le mani l'oro del Watford, cioè promosso in Premier League, il che vale un sacco di soldi, e sta conducendo questo mercato parallelo tra Udine e Watford. Diversi giocatori hanno rifiutato la destinazione inglese pur di fronte a molti soldi, e questa è una stranezza, senza dimenticare che Pozzo anche il Granada. Comunque rispondiamo, grazie agli ascoltatori molto attenti, io posso rispondere a Gianni senza fare grandi ricerche, perché mi scrivono che quel giocatore di cui ha chiesto informazioni si chiamava Goitom, giocatore dell'Udinese che segnò all'Inter, me lo segnala anche Massimiliano da Udine, Goitom. Io non me lo ricordavo Goitom, ragazzi. Giacomo Pavia, buongiorno. Ciao. Mister, grazie per la convocazione. Grazie a te. Velocissimo, volevo parlare del mercato della Propatria. No, sì. A parte scherzi, Propatria. Mi agganciavo alla domanda dell'ultimo ascoltatore che diceva che non parlate più delle altre squadre. Sì. No, a parte gli scherzi, volevo rispondere all'ascoltatore che pensava che la partenza di Pirlo era dovuto a un cattivo rapporto con Allegri. Volevo fare una precisazione, che comunque Pirlo era sotto contratto ancora per un anno, e chiaramente la Juve, piuttosto che darlo via da svincolato, forse qualcosina porta a casa un anno prima. Sì. Ma soprattutto, se l'ascoltatore di prima è spiegatato juventino, si sarebbe reso conto che la Juve 2 di Allegri, una volta che ha conosciuto il gruppo, ha cominciato a metterci le sue mani, ha cambiato le sembianze, dove il ruolo di Pirlo era superfluo, ovvero sì. Pirlo deve giocare davanti alla difesa con gente che fa argine a centrocampo. Certo, non c'è altra mattina. La Juve è molto più, come posso dire, propositiva, sì. È molto più operaia a centrocampo e forse meno fantasia. Mi piange il cuore, perché io ho visto un servizio dove c'era sotto la voce di Woody Allen di Manhattan, New York, e facevamo vedere tutti i gol di Pirlo. Effettivamente mi veniva la pelle d'oca, ma anche adesso a ripensarci mi viene. Sì. E poi c'è anche un'altra cosa, che forse dico una stupidata, però tutti quei soldi che Pirlo va a prendere a New York, 8. Qui in Italia non li avrebbe dati. No, questo è evidente. Ma quindi, un'altra cosa, come voi saprete, a gossip della persona Pirlo. Lui ha divorziato e purtroppo dovrà pagare una marea di soldi, sì. Come alimenti. L'unico modo per far cassa era andare lì. Li ha presi Giovinco, figurati che non li prende Pirlo i soldi. Sì, no, ma questi sono affari suoi. Poi è vero, Proprio tanti soldi che qua non avresti mai preso. No, questo in assoluto. Questo in assoluto, perché 8 netti a stagione. È chiaro che in Italia, in Europa, nessuno li avrebbe dati ad Andrea Pirlo. Poi anche l'idea comunque di andare a vivere a New York, di fare questa esperienza, considerata l'età, non mi sembra una cattiva scelta, non mi sembra una cattiva soluzione. Poi è verissimo quanto dicevi prima, e cioè che è un giocatore estremamente condizionante, lo dicevo, è uno che sto qui, ok, gioco, sono titolare, salvo infortuni. Una cosa è la Juventus con Pirlo, un'altra è la Juventus senza Pirlo, che peraltro in questa stagione abbiamo visto diverse volte. Quindi penso che sia una cosa che possa accontentare un po' tutti, insomma. Moreno, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire sul nome del giocatore dell'Udinese che ha segnato all'Inter gli ultimi 7 minuti, è Vagheggi. Vagheggi no, non credo sia Vagheggi, perché Vagheggi ha avuto una certa carriera in Serie A, quindi magari ne ha fatto una doppietta all'Inter, ma credo sia qualcosa di più recente. C'è chi mi dice che era Goitom, c'è chi mi dice che era Eninaia, ma mi sembra che Eninaia non giocasse all'Udinese, ma comunque lo scopriremo vivendo. Non credo fosse Claudio Vagheggi, ripeto, perché è stato un giocatore degli anni 70-80 che in Serie A qualcosa di più ha combinato anche nell'Udinese. Allora, andiamo a Tour de France. Era uno strappo molto difficile, lui ha saputo gestire lo sforzo meglio di tutti e ha guadagnato. Io ho cercato di gestire, sono arrivato insieme a Van Garderen, ho visto che Alberto era un po' più dietro di me, però non so bene, però tutto sommato aver passato questa giornata anche in Den è stato molto importante, bene. Morale dopo 2 giorni? No, il morale è buono, solo purtroppo c'è stato lo sbaglio di ieri che è costato un po' a tutta la squadra, è costato a me e cercheremo di recuperare. Questo ovviamente era Vincenzo Nibali. Ieri a quest'ora si parlava di una tappa molto complicata, quella del muro di Wii, ci raccontava per Augusto Stagi, una tappa nella quale Nibali, non ha, per caratteristiche sue non adattissime a questo finale, avrebbe dovuto contenere i danni. Ebbene, Piero Augusto ieri in una solita stranissima tappa del Tour, che ha visto la caduta di Cancellari in maglia gialla, la safety car sulla pista, bene, sul tracciato. Ebbene, Nibali ha dimostrato di avere la gamba, di esserci, o mi sbaglio? Sì, aveva già dimostrato di avere un'ottima condizione fisica anche nella maledetta tappa di domenica sul Mare del Nord. L'ha confermato ieri, come ci eravamo detti ieri pomeriggio, io confidavo in una buona tappa in difesa, si è difeso molto bene, ha perso quella quindicina di secondi solo da Froome, 11 secondi più 6 da Buono, da Froome, ha contenuto con Quintana e Valverde, ha guadagnato poco ma ha guadagnato un po' su tutti, anche sullo stesso Contador che io credo ieri alla fine abbia patito il colpo perché si sentiva molto più in palla, invece ieri nella variazione di ritmo, tra l'altro su uno strappo che si addice, no? Contador è un atleta molto più scattista che sa andare più d'agilità rispetto a Nibali e quindi su quello strappo doveva andare meglio, secondo me invece ieri ha dato un segnale di non brillantezza. Sì. Io credo che questo Tour sia complicato da rimettere in sesto per Vincenzo, bisogna vedere come andrà oggi, al momento la situazione. Altra tappa difficile quella di oggi, altra tappa complicata. E però mi fanno molto paura Chris Froome e Nairo Quinta, secondo me loro due restano i due punti di riferimento, le due stelle polari di questo Tour de France. E mi impressiona molto Froome per la freddezza, la calma. Devo dire che io li ho criticati spesso e volentieri i britannici perché in ammiraglia non hanno mai un coach all'altezza della situazione, invece fino a questo momento non hanno sbagliato un colpo, come ad esempio domenica, che qualsiasi altro si poteva far prendere dalla foga e mettersi lì a tirare per cercare di vincere alla terza tappa il Tour de France, invece hanno mantenuto una calma molto British. E hanno lasciato fare agli altri, hanno detto ragazzi il Tour è lungo, ci va bene così, fatelo voi, volete vincere oggi il Tour, vincetelo voi, noi stiamo qua. E lì vuol dire avere lucidità, idee chiare, sapere veramente dove sei e come devi essere al momento giusto. È stata una tappa per il Team Sky estremamente importante. Estremamente positiva. Un po' meno per il team di Contador, che invece ad esempio si sono fatti proprio loro prendere dalla smania di vincere il Tour sul Mare del Nord, e invece qualcuno dovrebbe dire loro che il Tour si vincerà tra 3 settimane a Parigi. Si vincerà tra un po'. tra un po'. Con sorprese giorno per giorno, e noi le racconteremo anche domani con Pier Augusto Stagi, che ringrazio. Grazie anche a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Giovanni Melchiori in redazione, a Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao a tutti. Il signor Tardo non è al momento raggiungibile. Arrivederci ragazzi, ciao!